just for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come on. Quasi un delitto interrompere questo bellissimo blues, ma comunque noi poi lo riascolteremo, perché il nostro ospite, anzi il mio co-conduttore questa sera, l'ha scelta come sigla, quindi ci accompagnerà per diverso tempo. E questa è una nuova, diciamo, un nuovo volto di Radio Cirrano. Voi sapete che noi abbiamo iniziato questo percorso tentando, e ci stiamo riuscendo un po' alla volta, di valorizzare o comunque amplificare quelle che sono le grosse peculiarità, come posso dire, sì, anche le grosse professionalità che in zona noi abbiamo. E questa sera siamo veramente felici perché abbiamo con noi uno dei massimi esperti, quantomeno della nostra regione, ma io direi anche a livello nazionale, di blues, non solo perché un signore che il blues l'ha suonato e continua a suonarlo, ma anche perché si inventò tantissimi anni fa un bellissimo festival blues ad Atri, che probabilmente molti di voi conosceranno, è Green Hills in Blues, che ha permesso a tantissime persone, a tantissimi cultori di questo splendido genere musicale che noi stavamo chiamando prima dell'inizio del programma, stavamo chiamando un po' l'alfa, l'inizio di tutto, perché in effetti il blues possiamo dire che è il fulcro di poi una serie di avvenimenti, di connotazioni musicali che si sono sviluppate negli anni, ma il blues è sicuramente qualcosa che è un po' la matrice, ecco. Quindi dicevo, Green Hills in Blues, quindi probabilmente sapete che sto parlando di Vincent Butterfly, come lo chiamiamo noi, ma che comunque Vincenzo Melchiorre Ricci è il patron, era o è il patron? Era il patron di questo splendido festival, che ha permesso a molti di noi di ascoltare musicisti che probabilmente non sarebbero mai arrivati in zona, e anche ha permesso a tanta gente di scoprire il blues, o la vera essenza del blues. E adesso sarà lui un po' che ci parlerà di che cosa vuol farci ascoltare, o soprattutto di che cosa ha in mente lui per questo nostro programma. Allora, parlare di blues è, diciamo, non è facile, non è semplice, soprattutto perché il blues è la musica dell'anima, è una musica che è sofferenza, è speranza, è una musica che racconta la vita, racconta le proprie fragilità, le proprie condizioni di esistenza. Il blues, o ci sei o non ci sei, il blues non è un qualcosa che si inventa. Difatti tutti quelli che suonano il blues fondamentalmente sono delle persone blues, sono persone diverse, sono persone che hanno un loro modo di vivere, un loro modo di concepire la vita. Il blues è una condizione di vita, e come lo siamo noi nel piccolo, quelli che, diciamo, che hanno questa passione, che cavalcano questa passione, inizialmente nei primi anni del Novecento lo avevano questi signori che poi hanno portato il blues a livello mondiale. Questa sera parleremo di grandi musicisti, di quelli che sono stati i primi fautori di questo genere musicale che affonda le radici già dall'Africa, sono gli schiavi africani che in certo qual modo portano una ventata di musica, di qualcosa che effettivamente gli americani dell'epoca non avevano mai potuto ascoltare. E questa musica che nasce nelle piantagioni del sud dell'America, dove questi uomini e donne venivano in certo qual modo sfruttate, come oggi succede anche qui negli anni che viviamo, questa musica era una parte principale della loro vita, perché attraverso questi canti particolari loro riuscivano a comunicare, riuscivano a dire le loro emozioni, le loro sofferenze, ed era veramente un qualcosa di straordinario, perché è come dire una radio che camminava, che si evolveva attraverso il canto. E si racconta che già nelle piantagioni, tra una piantagione e l'altra, si cantavano delle strane storie d'amore, storie di incontri, ma soprattutto storie di sofferenza, di lavoro, e soprattutto storie di vessazione. Era questo il sistema che imponeva a questi uomini arrivati dall'altra parte del mondo, che in certo qual modo hanno fatto poi dell'America, hanno fatto la storia, insomma. Ecco, noi questa sera vogliamo iniziare un percorso che ci porterà ad ascoltare le prime cose che sono uscite grazie a dei temerari, i primi registratori temerari che andavano in giro e scoprivano questi musicisti. Il primo musicista che questa sera è, secondo me, diciamo, il padre inconfutabile di questo genere, è un signore che di lui si conosce ben poco, immaginate una sola fotografia si ha di lui, e una foto che poi non è che gli dà tutta questa visibilità. Il suo nome è Charlie Patton, è colui che in certo qual modo ha dato vita a questo genere che poi è esploso nel corso degli anni. Io direi di sentire il primo brano, in modo che abbiamo... Si chiama Pony Blues ed è un blues, diciamo, dei primi del Novecento, insomma, quando ancora non c'erano tutte queste diavolerie di oggi. Oggi stiamo parlando attraverso questa radio che cammina sul filo dell'etere più straordinario, la rete. Is women going crazy every day in their life? Will you kill a man, baby? Yes, I will. Dead by the heart. I'm a fool about my. Don't take me long to get my. Baby, you know I need my. It means don't poison the lifetime. Just about up. It is even right along. Ba-ba-ba. All I want. Maybe it's just prison. Cheers up. I go to bed. You don't want to fight better. Look here, baby. Would you slap me? Yes, I will. Just about up. Baby, you know I'm a fool. Bad man. Would you kill a man? Yes, I would. You know I'll kill you. Just not I. For to remain. That you see it. Fool about it. You know, baby, I mean. Bad old. Baby, I want to hit the gym with it. Bad old. Baby, you won't quit me? Yeah, just about up. It's all I want, baby. It's me, it's enough. Look at here, baby. I'm leaving town. Just about up. Baby, you know I need that up. beg me, maybe. But I want my baby. I'm full of bad dad. Look at your heart. I need that for giving me living power. It ain't got no. Oh, that's true. Baby, no, I need my. In my kitchen, there's hard to be ready. I do. A woman I know took for my best friend. Some joker got love. Vince sta sigla e fa i complimenti per la sigla, però non va bene perché uno c'ha come dire un timore reverenziale nel rompere l'incantesimo di questo brano. E abbiamo ascoltato Charlie Patton prima e come diceva Vincenzo è il capostipite un po' di questa ondata dell'anima, come la possiamo definire. Come lo possiamo definire il blues, lì dove tutto è iniziato, ed è iniziato certamente in luoghi di sofferenza, di fatica. Il blues non è altro che uno stereotipo, nel senso di una matrice dalla quale poi è partito tutto, è una matrice che però è stata segnata soprattutto dalla schiavitù, dalla capacità di questi neri americani, soprattutto nel sud dell'America, impiegati soprattutto nelle piantagioni di cotone, e nel rimanere attaccati anche alle radici, e poi la commistione che ne è venuta fuori, insomma, ha dato il via ad una serie di avvenimenti musicali veramente strabilianti. Ma facciamo un po' continuare a parlare, a spiegare, Vincenzo, su questi argomenti così affascinanti, così primordiali anche. E niente, parlare di Charlie Patton è sicuramente come parlare di tutti per questi personaggi che hanno dato inizio a questo genere musicale. Non è che si hanno molte notizie, sono tutte frammentate. Addirittura Charlie Patton, diciamo, come dicevo prima, esiste solo una foto della sua figura, e non esiste nemmeno una identificazione etnica, perché non si capiva se lui era veramente di una razza in particolare, perché lui aveva in sé tutti i colori di quello che poteva essere l'America in quel momento. Addirittura si dice che aveva anche nelle vene del sangue indiano, dei Cherokee. Addirittura hanno scoperto poi che aveva una nonna che era Cherokee. Dunque praticamente stiamo parlando di personaggi che, diciamo, che sono ancora sconosciuti, nonostante hanno segnato questo genere musicale. Adesso faremo, diciamo, dopo Charlie Patton, che è stato il primo, andiamo a parlare del più grande, secondo me, del più grande esponente del blues, che ancora oggi è il re del blues, è quello che ha racchiuso in 29 canzoni tutto il repertorio che bisogna conoscere per tutti quelli che fanno il blues. Difatti, come diceva Carlo, la sigla di questa sera che io ho scelto e che sarà il leitmotiv di tutte le puntate che andremo a fare è un suo brano, però finemente, diciamo, rimodernato da un gruppo olandese, Gare du Nord. E il brano si chiama Coming My Kitchen, e come dire in gergo così italiano, vieni nella mia cucina, che era tutto un dire, perché nella cucina succedevano anche cose un po' particolari. E Robert Johnson, se voi pensate che Robert Johnson aveva avuto una vita veramente straordinaria, fatta di amori, di passioni, e lui nelle sue canzoni ha cantato tutto quello che c'era da dire della vita, e lui non si sa se è stato ammazzato accoltellato, se è stato avvelenato, però Robert Johnson ancora oggi è quello che determina il genere del blues, sia agli inizi che moderno. Tutti quanti, tutti i musicisti hanno dovuto fare e fanno il conto con lui, con Robert Johnson. Until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy, I'm by the highway side. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy, down by the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride. Some joker got lucky. Beh, dal gracchiare, dalla qualità, diciamo, del suono, come dicono i più eruditi, avete potuto comprendere subito che siamo veramente partiti dagli albori. Robert Leroy Johnson, secondo Vincenzo, è il più grande esponente, ma non lo dice solo Vincenzo, lo dicono in molti, e io concordo pienamente. Vi ricordo che state ascoltando Radio Cerrano Web, e questa sera con Radio Cerrano state attraversando i meandri del blues, ma stiamo partendo proprio dagli inizi anni del Novecento. Abbiamo detto fino adesso che è stato un po' l'inizio, il punto alfa di tutto, ma quando diciamo di tutto non parliamo solo di blues, di rock, ma si parla anche di country, si parla anche di tutta una serie di commistioni musicali. Non dimentichiamoci che dentro il blues, il soul, c'è anche il gospel. C'è, insomma, un coacervo di musicalità, un coacervo di che poi naturalmente sono un coacervo di sensazioni, di momenti storici, di vita, perché comunque stiamo parlando di vita, e il blues credo che incarni pienamente questo significato, cioè quanto la musica, l'arte in genere, sia veramente attaccata alla vita e a tutto quello che ci succede nella vita. Che dici, Vincenzo? Ma la musica, io dico sempre una frase molto emblematica: la musica non ci cambia la vita, ma ci aiuta a viverla meglio. Questa è una frase che io ho coniato tanti anni fa proprio per dire ai tanti ragazzi Ebbene sì, studiare, esercitarsi, aiutare il talento a capire il linguaggio di tutti i generi musicali. Poi c'è chi arriva diciamo, a grandi livelli, c'è chi arriva ad essere noto, famoso, però qualcuno come me, io son voluto per mia ragione, sono voluto rimanere quello che sono, lo sono da sempre, insomma. La vita, la musica non mi ha cambiato la vita, ma certamente mi ha aiutato a viverla meglio. E per questa cosa voglio raccontarvi un piccolo aneddoto di Robert Johnson. Lui aspirava a diventare il chitarrista più forte del mondo, anche se il suo mondo era ristretto nel delta del Mississippi, perché questi grandi musicisti, nonostante diciamo suonassero ogni sera, riuscivano a suonare a distanze piccolissime, in piccoli paesi, uno attaccato all'altro. E Robert Johnson, si dice di lui che aveva fatto il famoso patto col diavolo al crocicchio. Il diavolo, praticamente, lui aveva venduto l'anima al diavolo pur di diventare il più grande chitarrista blues che poi nella storia diciamo è diventato, perché se voi pensate che Eric Clapton, per incidere un omaggio a Robert Johnson, per fare quello che Robert Johnson ha fatto da solo in quello studio tanti anni fa, si è dovuto avvalere di un altro chitarrista, quel Doyle Bramall II, che è anche un grande chitarrista americano, praticamente per ricreare le stesse sonorità che Robert Johnson era riuscito a ricreare da solo. Allora lui aveva veramente dato l'anima al diavolo? Non si sa, questa è una storia che anche in un film che si chiama Mississippi Adventure è stato un pochino evidenziato. E tutti quanti i musicisti di blues vorrebbero trovare quel crocicchio, quel crossroad che potrebbe permettere a loro di vendere la propria anima, ma l'anima non si vende, l'anima si tiene per sé, perché l'anima è quella che pulsa e poi l'anima è quella che vuoi tu, quella che ti dice, quello che ti dice cosa vuoi fare e quello che devi essere, soprattutto se tu hai rispetto della tua anima e l'anima non ti tradisce mai. Vi avevo detto che stasera sarebbe stata una serata magica, in effetti lo è, gli aneddoti e comunque la sapienza di Vincenzo incantano, così come incanta questa musica e così come veramente ci fa tornare alle radici. Può sembrare una frase fatta, ma non lo è, è tutto ciò che ci fa tornare in fondo, ci fa toccare il fondo della nostra anima e le radici, sicuramente non può farci che bene. Grazie Vincenzo di questa bellissima. Wake up mama, turn your lamp down low. Wake up mama, turn your lamp down low. Have you got the nerve to drive Papa Maxwell from your door? My mother, daddy left me reckless. My daddy left me wild. Mother, daddy left me reckless. Daddy left me wild. No, I'm not good looking, but I'm some sweet woman's angel child. She's a mighty mean woman, do me this away. She's a mighty mean woman, do me this away. When I leave this town, pretty mama, I'm gonna wait to stay. Why to love the woman better than anyone I'd ever seen? I once loved a woman better than I'd ever seen. Treated me like I'm a king and she was a doggone queen. Sister, tell your brother. Brother, tell your auntie. Now, auntie, tell your uncle. Uncle, tell my cousin. Now, cousin, tell my friend. Going up the country. Mama, don't you wanna go? May take me a fair brown. May take one or two more. Big 80 left Savannah, blowing and did not stop. You oughta saw that color fireman when he got them ball of hot. You can reach over in the corner, mama, and hand me my traveling shoes. You know by that I've got them stitched for blue. Mama, sister got them, Addie got them, brother got them, friend got them, I got them. I woke up this morning, we had them stitched for blue. I looked over in the corner, grandma and grandpa had them too. Some joker got lucky, stole her back again. He better come on. Bene, abbiamo ascoltato le note di Blind Willie McTell. Lui era un musicista non vedente e si avvaleva anche della presenza della moglie per portare il suo blues in quei locali dove riusciva a guadagnare qualcosa per tirare avanti, perché poi in fin dei conti questi uomini che hanno segnato la storia non sono mai diventati ricchi, hanno sempre, sono sopravvissuti e non hanno mai avuto la parvenza di ricchezze. Per loro era importante solamente esprimersi con il loro, con la loro anima, facendo musica, e si mettevano vicino a quei punti dove la gente era un po' di più, era più numerosa, e mettevano per terra un tipo di recipiente e vivevano di quelle piccole offerte. E lui era uno di questi qua, Blind Willie McTell, una persona che veramente ha saputo, è stato uno dei primi suonatori di chitarre a 12 corde, e con questa chitarra ha impresso un nuovo modo di un nuovo, delle sonorità nuove che hanno veramente poi portato questo altro artista, altro sconosciuto, al successo, ma era un successo sempre era un successo fatto di pochi chilometri, però a loro bastavano solamente poche cose, bastava fare un pranzo o una cena ed erano felici. L'importante per loro era suonare e esprimere la loro anima. Questo è il vero senso del blues. Yeah, one more time. But he got lucky, don't turn back again. And he got lucky, don't turn back again. State ascoltando Radio Cerrano Web e vi ricordo che siamo in rigorosa diretta anche perché sono le 21.04 almeno al mio orologio, sì. 21.02 invece agli orologi del computer, so più precisi. E con noi stasera Radio Cerrano parla di blues con un ospite d'eccezione, Vincenzo Melchiorre Ricci, Vincent Butterfly, noto musicista e organizzatore di eventi. No, non mi piace organizzatore, no, organizzatore di festival blues, perché poi gli organizzatori di eventi sono altri. A me preme ricordare che potete ascoltarci naturalmente sulle pagine Facebook, su quella Instagram no, però ci potete seguire. E poi abbiamo delle piattaforme come TuneIn, Radio Garden, Radio.net e Listen to My Radio, in cui siamo presenti. Naturalmente da lì poi potete succhiare la nostra musica. Abbiamo anche un sito che è radiocerrano.net. E da lì si ascolta direttamente la radio. Devo salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando, i nostri tra virgolette fedelissimi, ed è bello perché comunque noi adesso usciamo un po' veramente dai confini, noi facendo uno scroll, come si dice adesso, dei risultati e degli ascolti, ci siamo accorti che ci seguono da tutto il mondo, e questa è una cosa che non può farci altro che piacere. Siamo veramente contenti, quindi salutiamo Lisa che ci sta ascoltando dalla Romania, salutiamo quelli che ci stanno ascoltando anche dagli Stati Uniti, e poi naturalmente vi ricordiamo anche che potete, attraverso i nostri podcast, potete riascoltare il programma che stiamo registrando e lo potete anche risentire domani, credo, nella nostra programmazione giornaliera. Vincenzo, a te la parola. Allora, io volevo dire qualcosa su questo Cerrano inteso come diciamo, io lo chiamo spesso il triangolo delle Bermuda, perché partendo da Atri e poi toccando Silvi, Pineto e Roseto, dove in questa zona ci sono tanti musicisti che si dilettano a suonare il blues. Sinceramente, non per far torto a nessuno, non nominerò nessun nome perché sarebbe ingiusto magari se faccio delle dimenticanze, però nella nostra zona, nella zona del Cerrano, ci sono tanti musicisti, ma anche bravissimi, che hanno avuto esperienze anche a livello europeo nell'ambito del blues, ma questo soprattutto perché l'Abruzzo è terra di blues. Io tanti anni fa, quando ho cominciato con le prime edizioni del festival, ho voluto fare una ricerca sui musicisti abruzzesi che si dedicavano al blues, ed effettivamente è stata una miniera di scoperte, perché in Abruzzo sono tanti musicisti che suonano blues, ma senza dimenticare che in Abruzzo ci sono dei festival ancora più anziani di quello che è stato il Green Steam Blues. Noi pensiamo all'Aventino Blues, dove l'Aventino è, diciamo, siamo proprio all'estremo sud dell'Abruzzo, e qui anche in quella zona ci sono tantissimi musicisti. Dunque il Cerrano, parliamo della nostra zona, Atri, Pineto, Silvia e Roseto, sono tanti ragazzi che si dedicano a questo genere, ma soprattutto perché hanno avuto l'occasione poi di frequentare queste manifestazioni. Io non direi solamente il Greens in Blues, ma anche il Rock, Wine and Blues di Silvi Paese, che è stato un punto di riferimento. Io sono stato per 4 anni il direttore artistico di questa manifestazione ed era arrivato a un ottimo livello. Dunque, praticamente il blues ha una sua casa qui in Abruzzo, e esiste anche un locale a Silvi Marina che si chiama The House of the Blues, e il famoso Murphy's di Lele, che stranamente il 28 di dicembre chiude i battenti, e tutti i ragazzi, tutti gli amici che hanno frequentato per 20 anni questo locale sono chiamati a fare una jam session per dire addio a questo locale. E quando chiudono i locali dove hanno avuto una storia, come quando chiudono le librerie, come quando io ho dovuto chiudere il mio negozio di dischi, vuol dire che diventiamo tutti più poveri. Questo è uno sfogo mio personale per dire l'amarezza che sento dentro di me, dentro la mia anima, per aver dovuto interrompere e per aver dovuto assistere a tante defiance in questo settore. Nel frattempo abbiamo sentito Skip James. Skip James è stato uno dei grandi musicisti, veramente un musicista acculturato, perché lui suonava benissimo la chitarra e il pianoforte, ed è anche un musicista che ha saputo dare un grosso impulso a quel blues di transizione tra la tradizione e portarlo piano piano verso una certa modernità. Stiamo parlando sempre degli anni, diciamo a ridosso degli anni 40, prima della guerra, della seconda guerra mondiale. Se il nostro regista ci fa ascoltare il secondo brano di Skip James, io dirò ancora qualche cosa insieme a Carlo nel frattempo. Grazie. Than ever been before. You know that people they are drifting from door to door, but you can't find no heaven I know. Yeah, where they go. People, if I ever can get up off of this old heart-killing floor, Lord, I'll never get out this low no more. When you hear me singing this old lonesome song, people, you know these hard times can't last us so long. Just dry long so. Io condivido in pieno quello che stava dicendo Vincenzo riguardo a un po' all'impoverimento culturale a cui stiamo assistendo in questi anni e penso anche che il fatto di ridare vita ad una radio, io la continuo a chiamare una radio libera perché comunque è così, siamo liberi noi di dire, di fare quello che vogliamo, ma anche libera negli orari, nei palinsesti, insomma, questa è una cosa bella. Ecco, io dicevo, nel riproporre anche una radio libera, dentro di noi c'è anche la voglia di risollevare un po' le sorti di questa cultura veramente pop, nel senso di popolare, di questa cultura anche territoriale che con i grandi network, con i grandi numeri delle televisioni commerciali, radio commerciali eccetera, naturalmente vengono a mancare. Quindi la nostra è anche la voglia di far tornare a galla o di far arrivare a galla, perché più delle volte pochi sapevano quello che ci diceva Vincenzo, il fatto che nel nostro Abruzzo il blues ha attecchito in maniera così importante. E, ecco, far dire queste cose e portare all'attenzione di molti queste cose credo che sia veramente benefico per la nostra cultura. Credo anche che lo sforzo naturalmente è tanto, ma insomma noi ce la stiamo mettendo tutta. Beh, parlare di radio con me sfondi una porta aperta, Carlo, sai perché? Perché io da bambino sono nato con la radio. Tu immagina che mio padre comprò una radio già negli anni 50, io ero un bambino e mi ricordo questa radio con l'occhio magico, e ogni volta che lo accendevo questa radio, sentire quelle musiche strane che arrivavano dall'est Europa, Radio Tirana, era qualcosa di straordinario. E poi si ascoltava. Poi Battiato ha copiato questa cosa di Radio Tirana. E la cosa bellissima era anche il fatto che si aspettava il Festival di Sanremo per ascoltare Grazie dei Fiori, oppure Il Volare di Modugno, o Claudio Villa, Luciano Taioli. Come dire, la mia cultura musicale è stata anche quella, cioè quella di ascoltare il bel canto italiano. Dice, ma questo che cosa ci azzecca con il blues? Io ho sempre pensato che la musica, esiste la musica bella e la musica brutta, non esiste diciamo altro, capito? Se ci mettiamo a parlare di musica che a me piace, io dico a me piace tutta la musica, in particolare la musica mi emoziona. Chiaro, ascolto più blues perché il blues è più vicino a me, ma se devo sentire musica classica o musica sinfonica o musica lirica, sono ho il mio orecchio che l'ascolta in una maniera straordinaria. E niente, parlare di radio libere, come diceva Finardi, ma veramente libere, non è facile, perché oggi le radio, purtroppo assistiamo alle radio commerciali che hanno bisogno di incassi, di pubblicità, e ci mettono chiaramente quello che le case discografiche propongono. Quanti sono gli artisti che effettivamente non vanno mai in radio e avrebbero tutta l'opportunità di andarci? Tu immagina, io conosco tanti musicisti bravi, ma anche cantautori che non verranno mai trasmessi nelle radio più blasonate, perché non hanno dietro una casa discografica che gli dà l'opportunità. Però se tu vai a ascoltare i dischi di questi ragazzi, di questi musicisti, ti rendi conto che c'è una produzione straordinaria. Dunque la radio libera dovrebbe veramente fare un lavoro di cultura, perché far conoscere questi ragazzi e dare poi la possibilità a questi ragazzi veramente di essere gratificati del loro lavoro, perché oggi ci sono veramente dei ragazzi che hanno tutte le carte in regola per essere degli artisti. Peccato che l'industria discografica non glielo permette, perché purtroppo l'industria discografica è legata ai numeri e i numeri oggi non si fanno più. No, per farvi capire quanto siamo liberi noi, no? Nel senso che il nostro programma è iniziato col blues, poi naturalmente ci siamo fatti trasportare da queste tematiche che ci piacciono, che in qualche modo anche ci riportano indietro un po' nel tempo e ci fanno piacere naturalmente. No, volevo sottolineare quello che diceva Vincenzo, avvertendovi, ecco, che noi nei prossimi giorni, ad esempio, presenteremo il nuovo CD di un cantautore nostrano di Teramano, bravissimo, un musicista, un ragazzo giovane che ha inciso da poco il suo primo album in italiano, poi lui con un gruppo aveva inciso già, e in più presenteremo anche, credo la prossima settimana, un lavoro di un nostro conterraneo, di Elio Forcella, che tu conosci benissimo. Qui si parla invece di un libro, ma che è diventato anche un recital musicale, quindi ecco, noi ce la mettiamo tutta e speriamo bene. Naturalmente la sponda ce la devono fare loro, cioè quelli che ci ascoltano, nel diffondere al meglio anche quello che noi trasmettiamo. Ma sì, io penso che tutte le forme di cultura hanno bisogno di essere ascoltate e soprattutto farle venire a galla, perché il racconto, la poesia che, della quale noi abbiamo tanto bisogno, perché poi chi riesce veramente a scrivere delle poesie trasmette tutta l'anima in poche righe, e dunque la poesia, il racconto, la musica, tutto quello che è arte, secondo me non ha confini, non ha limiti, perché chi veramente ascolta musica, come nel mio caso ascolto musica e tento di fare anche musica da tantissimi anni, mi infarcisco ogni giorno di lettura, leggo poesie, leggo racconti, mi piace leggere, perché attraverso la lettura riesco anche a trovare qualcosa di me stesso dentro a chi effettivamente riesce a scavarsi dentro. Dunque la cultura della quale noi abbiamo bisogno, della quale, come io ti ricordo Carlo, tanti anni fa un ministro della Repubblica Italiana ebbe l'ardire di dire che con la cultura non ci si mangia. Invece questo paese, l'Italia, ha tantissima cultura da far vedere, da far sentire e soprattutto cultura da esportare, perché noi non ci dimentichiamo che siamo la nazione dove la cultura, diciamo, ha trovato proprio un terreno fertile, il bel canto italiano, ma soprattutto anche la canzone napoletana, che ha valicato gli oceani, ha valicato tutto quello che c'era da valicare. Dunque io dico solamente una cosa, non fermarsi solamente all'ascolto della musica, ma anche avere un orecchio attento e soprattutto un occhio attento a quello che a noi ci interessa veramente, quello di crescere, perché attraverso la cultura cresciamo anche nella nostra anima. You know I grabbed up my suitcase, took her down the road. Oh, when I got there, she laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said I took her down the road. I said when I got there, she laying on the cooling board. You know I walked up close, looked down in her face. It's a good old girl, got the lay at a judgment day. I say I walked up close, I say and I looked down in her face. I say it's a good old girl, got the lay at a judgment day. You don't look like 10,000 people standing around the burying ground. I didn't know I loved her until I let her down. Looked like 10,000 standing around the burying ground. You know I didn't know that I loved until I began to let her down. You know I didn't feel so bad till the good Lord's sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good Lord's sun went down. I said I didn't have a soul to throw my arms around. You know it's so hard to love someone don't love you. Don't look like a satisfaction. Don't care what you do. It's so hard to love someone that don't love you. You know, don't look at his satisfaction. Don't care what you do. You know, love high to fall. Make you do things you don't want to do. Love sometimes make you feel insane and blue. Love hard on fire, make you do things you don't want to do. Love sometimes leave you feeling sad and blue. Abbiamo ascoltato Son House, uno dei compagni d'avventura di Robert Johnson, Willie Brown, Charlie Patton, Leroy Williams. Son House ebbe una storia molto molto controversa nella sua vita e lui uccise un uomo e per questo fu in certo qual modo perseguitato dalla legge, dalla giustizia e scontò i suoi anni, però anche in prigione riuscì ad essere quello che era, un musicista di blues, e diciamo che è stato un musicista che ha ispirato moltissimi musicisti anche tra i giovani, senza dimenticare i White Stripes, ai quali ha dato veramente un indirizzo ben preciso. Son House, un uomo di blues ma di quelli veri, aveva una forza straordinaria nel suo picchiare la chitarra. Lui non suonava, la picchiava letteralmente la chitarra, picchiava le corde come un forsennato, ed era chiamato l'uomo che osa picchiare lo strumento come nessuno. Aveva una forza micidiale nelle sue dita. Oh, can do. I say I got up this morning, I was feeling round for my shoe. I say I know by that now I got there walking blue. The blues ain't nothing but a load of shake and cheer. If you had them, I hope you never will. All the blues till the lowdown will shake and chill. Well, now, if you had them, boys, I hope you never will. When you get worried, drop me a line. Yeah. If I don't go crazy, honey, I'm good. My mind, yeah. When you get worried, I say, sit down and drop me a line. If I don't go crazy, honey, I'm good to lose my mind. Yeah, I ain't curly a doggone. I say, yeah. If you don't want me, what the world I want with you, all your eyes colored, and your dark brown eyes are blue. I said, now if you don't want me, babe, what the world I want with you? Don't a man feel bad, the good Lord, sun go down, it ain't nobody to throw his arms around, can't a man feel bad? I say when the good Lord, sun go down. I said he don't have a soul not to throw his arms around. Look at you, baby, what you want me to do? Yeah, yeah. I've done all I could just to get along with you. Look at you, honey, what do you want for me to do? I say I've done all I could, honey, just to get along with you. You know I love my baby like a colored sure could. I'm laying around here though I ain't doing no good. I love you, honey, like a colored sure could. Oh, I'm laying around here, baby, but I sure ain't doing no good. You know the minute seems like I'm beloved, seems like dirty, seems like my baby to step up, low down way. Oh, the minute seems like I'm beloved. I said, oh, you seem like dirty. You know it seems like my baby and a stop up, oh, Lord, I'm waiting. Now I have my fortune told. I please somebody stealing my jelly roll. I'm going to the gypsy. I believe I have my fortune told. Cause I believe somebody is trying to steal my jelly roll. Ooh, I got up this morning feeling sick and bad. Thinking about the good times that I once had us so soon this morning. I was feeling so sick and bad. You know I was thinking about the good times. Now that I was so bad. Yeah. Yeah. down here. Yes, yeah, yeah. My woman will. You know I'm gonna wait for still a long time. I ain't coming back here until you change your mind. Oh, I'm gonna wait. I'll be around still a good long time. I say ain't coming back, honey, until you change your mind. Siete in ascolto di Mississippi Mood. Questa è il nuovo, la nuova traccia musicale di Radio Cerrano Web. Come ti piace questa voce? Ci stiamo divertendo tantissimo questa sera con Vincenzo Melchiorre Ricci, che insomma tutti conoscono come Butterfly. Però stavo ricordando con... Tu stavi da un'altra parte, stavo ricordando con il nostro regista quando si veniva nel tuo negozio, mitico Musical Box. Dico mitico per una semplice ragione, per quello l'ho frequentato, io praticamente passavo i pomeriggi con Vincenzo, io andavo lì, si discuteva di tutto, oltre che la musica era la scusa, poi lui, essendo un po' più grande di me, era anche un po' un maestro di vita e si discuteva di tutto. E mi ricordo che insomma Vincenzo poi sta cosa non l'ha persa, mi ricordo che ce l'aveva sempre con quelle delle tasse, eccetera, eccetera. Malediva sempre i ministri che mettevano le tasse, eccetera. No, poi c'era qualcuno qui dietro che fa il regista adesso, che andava da Vincenzo e gli chiedeva sempre la famosa cassetta al biscromo, che Vincenzo diceva non ce l'ho. No, per farvi capire un po' che noi stiamo parlando di un pezzo di storia musicale della nostra città, e per noi è veramente uno spasso parlare e ricordare quei momenti bellissimi che per quel periodo ci sembravano un po' noiosi, un po', come dire, uscivi, poi invece adesso gli dai il giusto peso, credo, anche perché io nel negozio di Vincenzo, naturalmente prima di Emilio, di Gino e anche di Luciano, che ci sta ascoltando, il lupo, a un altro grande artista della nostra area, dicevo, lì io ho ascoltato dischi incredibili, io ricordo dei particolari, io mi ricordo un particolare che io in quell'epoca stavo all'università e tornai con una cassetta che mi fece Vincenzo dei Pavlov's Dog, e in un'università grande nessuno conosceva, cioè voglio dire, diventava veramente una fucina di talenti, ma anche una fucina di culturale importante, per noi è stato importantissimo. Così come mi piacerebbe capire un po' dove Vincenzo ha incontrato il blues, dov'è che ha fatto questa conoscenza folgorante? Beh, io con il blues ho avuto un amore subito, perché sono quelle cose che quando le vedi a prima vista ti affascinano, perché il blues è un qualcosa che ti viene incontro, ti cammina con un orgoglio, con un passo straordinario. Sì, come una bella donna, perché io ero un ragazzo, insomma, ero giovanissimo e suonavo già professionalmente, stavo in Germania, e un giorno io ho sempre amato quando anche quando facevo la professione del musicista in Germania, nonostante lavorassi ogni sera, facevo le ore piccole, però mi piaceva moltissimo il giorno alzarmi quasi, non dico presto, ma in un momento giusto perché io potessi vivere la mia vita. E un giorno mi sono introdotto in quelle stradine tipiche, diciamo, dei centri storici che sono un po' dappertutto. Io sono in un paese della Germania del Sud, e mi introduco in questo vicolo e sento venire fuori da un locale una musica strana, particolare, che io sinceramente, nonostante suonassi professionalmente, non avevo mai ascoltato. E come così, quasi perché le mie gambe andavano verso quel locale, sono entrato e a un certo momento c'era una musica diffusa, una musica diffusa da un registratore a bobine, sai, quei classici registratori che poi stava dietro a questo bancone enorme. E a un certo momento io mi sono seduto al banco grandissimo di questo locale e ho chiesto al barista, dico: scusa, ma chi è questo qui? E lui mi fa, dice: questo è un musicista blues, si chiama John Lee Hooker. Io rimango, come dire, meravigliato, estasiato, ma soprattutto sorpreso, perché io non l'avevo mai sentito quella musica. Non era mai stato, nonostante, ecco, io suonavo musica americana, musica per ballare, suonavo di tutto e di più, però il blues in particolare non l'avevo mai sentito. E poi sono rimasto in quel locale quasi tutto il pomeriggio ad ascoltare musica, e la cosa bella è stata che questo barista faceva girare questa bobina velocemente per dirmi: senti questo, senti quello, senti quell'altro. E in un certo momento ho cominciato a frequentare quasi ogni giorno questo locale e ho cominciato poi a comprare i dischi, piano piano lui mi ha indicato dei dischi da comprare e la mia discografia aumentava ogni giorno in più, e da lì è cominciata, diciamo, a espandersi questa mia grande passione. Ho cominciato a conoscere tutti gli altri musicisti di blues che lui mi aveva indicato, ma poi sono andato anche alla ricerca di altre cose che nel frattempo ascoltavo. Dunque, ero molto giovane, avevo 22 anni, insomma, tanti anni fa. È stata veramente una sorpresa straordinaria. E poi piano piano, diciamo che, come dire, come l'appetito viene mangiando, no? Quando tu mangi le cose buone, che cosa succede? Succede che più ne mangi e più ti piace mangiarle. E questa, diciamo, che è stata la passione. Tu ricordavi il mio negozio. Bene, il mio negozio, sinceramente, ho messo tutta l'esperienza possibile e immaginabile, e quando l'ho dovuto chiudere, come dicevi tu, non per colpa mia, perché non mi è corso dietro nessuno. Io tutto quello che, diciamo, i miei fornitori, tutto quello che ho dovuto pagare per quello che concerneva il mio mercato, il mio diciamo lavoro, l'ho sempre pagato. Chiaro, lo Stato era un, come dicevamo noi, era un socio che partecipava solamente agli utili, partecipava solamente allo svolgersi degli incassi giornalieri. E allora, diciamo, dopo tanti anni, dopo quasi 30 anni, ho deciso di chiuderlo, perché effettivamente sia l'avvento di internet, ma soprattutto anche le spese continue che aumentavano, i dischi purtroppo in altre situazioni venivano venduti quasi a prezzo di costo, e allora siamo stati costretti a chiuderlo, perché non dimentichiamo che il negozio, diciamo, è stato quello che ci ha dato la possibilità poi di tirare su i ragazzi, insomma, ecco. E voglio raccontare una cosa in particolare del mio negozio, che c'era mio figlio, quello più piccolo, che... Diciamo che il risultato più bello, migliore di Vincenzo sono stati due figli, entrambi musicisti, ma di levatura, diciamo, ottima. Dillo tu, insomma, di che si tratta. Diciamo i miei figli, come dire, l'orgoglio della mia vita è che tanti mi dicono i tuoi figli sono più bravi di te. Sarebbe quasi, come dire, sarebbe quasi assurdo se io non avessi dato la possibilità a loro di essere molto più bravi di me, anche perché poi loro hanno frequentato le scuole, ma soprattutto perché, diciamo, in casa si è sempre respirato, diciamo, la musica, e poi loro hanno dalla loro parte un grosso talento, insomma. Però voglio parlare un attimo di Alessio, che è il secondo mio figlio in arte, Alex Ricci, che ha all'attivo un disco di sua produzione, adesso ne sta lavorando su un altro, e poi è da 10 anni il chitarrista degli Apre la Classe. E Alessio veniva pochissimo in negozio, a dispetto di Gianmaria. Gianmaria era uno che, se lo lasciava al negozio, ti faceva ritrovare degli ottimi incassi. Quando io non ci stavo, ci lasciavo Gianmaria, ogni volta che ritornavo trovavo degli ottimi incassi. Mentre invece Alessio non veniva mai, perché diceva: a me il negozio non interessa. Però interessava per un'altra cosa, per venirsi a prendere i CD, i dischi. Un giorno ho aperto un armadietto che aveva lui e ho visto tanti di quei CD che mi erano sfuggiti, perché dico non l'avrei venduti, siccome erano copie quasi singole. Un certo momento l'ho visti tutti allineati e coperti in questo armadietto, ho detto: ecco dove sono finiti i miei dischi. Però non è che io non ho detto niente, anzi mi ha fatto piacere, perché lui da quei dischi ha imparato moltissimo. Parliamo di Roy Buchanan, parliamo di Peter Green, di Gary Moore, parliamo di musicisti straordinari, Eric Clapton e tanti altri. Però ecco, voglio dire, Alessio veniva solamente per prendere i dischi, cosa che non mi aveva mai detto, l'ho dovuto scoprire da solo. Cocaine dressed in white, say your baby gonna stay all night. Cocaine all around my brain. Yeah, baby, won't you get here quick? This old cocaine's making me sick. What you gonna do? Cocaine all around my brain. Yeah, baby, get here quick. This old cocaine's making me sick. Cocaine all around my brain. Bene, bene, bene, bene. La serata scorre piacevolmente. A me viene sempre da dire, la frequenza, che non esiste più, nel senso che, abituati alle vecchie radio in FM, io mi ricordavo 82.2, ma non c'è più, non esiste più Radio Tribù. E quindi niente, si parlava così un po' della nostra storia musicale, che poi sono le nostre storie di vita in fondo, perché la musica, almeno qui dentro in questa radio, un po' la musica ha segnato le nostre esistenze, e credo che sia bello. Io concordo pienamente con quello che diceva, credo di averlo anche detto in un mio programma passato, con quello che diceva Vincenzo riguardo alla bella e brutta musica. la musica che ti emoziona comunque è bella, comunque è qualcosa che ti dà, che ti lascia, che ti dà, o anche, credo, questo è un altro aspetto che forse chi non, magari non è proprio addentro ai fatti musicali, ma credo che sia anche lo stimolo. Quando Vincenzo raccontava del suo episodio in Germania, entrò e ascoltò quella musica e poi naturalmente tutto questo stimolò in lui una ricerca personale su quel tipo di musica. Ecco, io credo che la funzione, una delle funzioni principali sia proprio della musica o dell'arte in genere, sia proprio quella di spingere sempre oltre l'asticella, altrimenti non avremmo avuto poi magari un tipo di jazz, un tipo di country, un tipo di rock, eccetera, se non ci fosse stato qualcuno che magari in quel momento non era stato compreso, ma che poi insomma ricorderemo, e adesso magari ricordiamo come padre di quel tipo di quel genere di musica. Che ne so, io penso, quando dico così, a Charlie Parker, penso a Miles Davis, cioè a tutte persone che hanno sempre nel campo musicale, ma la stessa cosa può essere nel campo della poesia, del cinema e di altro, dell'arte in genere, hanno portato l'asticella sempre più su e cercando appunto di poi portare dietro quelle persone che hanno seguito questi percorsi nuovi. Dobbiamo dire che c'è stato anche qualcuno che ha tentato di percorrere nuove strade, ma magari non ci è riuscito, oppure ha fatto il bluff, perché sono esistiti anche musicisti che hanno bluffato sicuramente, o che sono stati super valutati, insomma succede in tutte le cose. Però io credo che, ecco, la funzione culturale della musica in questo senso, quello appunto di sondare, di vedere, di scoprire, sia importantissimo. Che ne dici, Vincenzo? Ma sì, in fondo la musica non la possiamo mai classificare. Io quando sento che qualcuno dice "ma che genere è?", trovo sempre un po' anacronistico dirlo, perché la musica fondamentalmente, siccome penso che esprime l'anima di ognuno di noi, la musica, specialmente i grandi musicisti, mettono del loro, e poi sono gli altri che classificano la musica leggera, rock, blues, jazz o progressive o altro. Se voi immaginate che i musicisti di quelli che stiamo parlando questa sera erano tutti musicisti che suonavano fondamentalmente delle chitarre economiche, no? C'era una famosa fabbrica di chitarre in America, si chiamava Stella, ed era, facevano solo due modelli, a 6 corde o a 12 corde, e queste chitarre erano le chitarre più usate nell'ambito del blues. E poi il musicista di blues usava suonare il bottleneck, che era niente meno che il collo di bottiglia, perché una sera uno di questi musicisti, Robert Johnson, scoprì che sfregando questo collo di bottiglia sulle corde aveva quel suono lamentoso, era quello che lui andava cercando, fondamentalmente perché con la chitarra voleva far piangere la sua musica. E allora questi musicisti fondamentalmente non usavano diavolerie e altro, usavano solamente le loro dita, la loro passione e soprattutto degli strumenti economicissimi che oggi nemmeno un ragazzo che comincia a studiare la chitarra vorrebbe suonare. E questi hanno fatto grande la musica blues proprio con questi strumenti. Dunque, diciamo che questa gente, oltre al fatto che non avevano grande possibilità di procacciarsi grandi strumenti, perché anche allora c'era la Gibson che faceva delle chitarre, ma questi non se li potevano permettere, perché fondamentalmente questi musicisti suonavano come degli avventori, entravano in un locale, si mettevano in un angolo e cominciavano a suonare. Fatalmente la gente cominciava a ballare e qualcuno faceva, come dire, faceva calare un piccolo obolo in quello, o era un cappello, o era un contenitore, o era il fodero della chitarra stessa. Dunque era tutto un po' così aleatorio, era tutto un po' non c'era certezza di niente. Oggi siamo ritornati anche a questo. Addirittura oggi suonare nei locali significa essere anche portati a sentire quante persone mi porti. Come quando, non lo so, se oltre a fare il musicista tu devi fare anche il portatore di clienti. E forse questa è una delle tante condizioni che molti locali stanno chiudendo, molti locali hanno difficoltà perché ne sono sorti tantissimi negli ultimi anni. Però sinceramente con la crisi economica molta gente, io mi ricordo tanti anni fa, magari si andava in qualche locale o a sentire, io vedevo, suonavamo già e vedevi gente che magari si faceva 1, 2, 3, 4 birre. Oggi vuoi le ristrettezze economiche, ma vuoi soprattutto che se ti beccano fuori con la macchina che ti sei fatto una tazza in più, subito non scattano le contravvenzioni e le multe, e scattano anche le restrizioni per la patente. One of Lead Belly's songs I learned off the record, which I think is a wonderful song. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I will see you in my dream. Sometime I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take great notion, jump in the river and drown. Oh, Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I will see you in my dream. Stop rambling, stop gambling, stop staying out late at night. Go home to your wife and family and stay by the fireside bright. Oh, Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night. I will see you in my dream. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night. I will see you in my dream. I got lucky, stole her back again. He better come home in my kitchen. Allora, abbiamo ascoltato in sottofondo due brani di Mississippi John Hart, anche lui del Mississippi, però della collina. Lui era un musicista un po' strano, anomalo, perché non veniva dal Delta, veniva dalle colline a ridosso del Delta, e per questo era un poco ben voluto, però la sua arte chitarristica lo ha portato ad introdursi in una maniera straordinaria, ad essere anche un punto di riferimento per molti musicisti del Delta. Mississippi John Hart, un omino piccolo ma di una tecnica straordinaria. Lui è uno che ha usato la chitarra in un modo particolare, perché con la chitarra suonava del country, del bluegrass, del folk, addirittura del rock and roll, ed è ancora oggi un musicista che è un punto di riferimento per tanti musicisti moderni. Chiunque vuole iniziare a suonare la chitarra si deve scontrare per forza con questo uomo venuto dalle colline del Mississippi. Dunque, il delta che va verso le colline. What's the matter? The blues has got you. You get up and sit on the side of your bed in the morning. You may have a sister and a brother, mother and father around, but you don't want no talk out of them. What's the matter? The blues got you. Well, you go and put your feet under the table, look down in your plate, got everything you want to eat. But you shake your head, you get up, you say, Lord, I can't eat and I can't sleep. What's the matter? The blues got you. Want to talk to you. Hear what you got to tell them. Good morning, blues. Blues are le potremmo definire sonorità primitive, ma in fondo lo sono. Vi ricordo che stiamo stati ascoltando un po' un primo step della storia del blues che ci siamo imposti di fare insieme a un grosso nome del blues nostrano, Vincenzo Melchiorre Ricci, che ci delizia. E poi naturalmente, come succede quasi sempre con Vincenzo, uno decide una via, poi invece si arriva da un'altra parte, ma il bello è proprio questo, e speriamo di trasmettervi questo nostro stare bene a parlare di musica e a ricordare anche aneddoti e altro che circolano intorno alla musica. E io credo che molti di voi, così come è successo a me, un po' si sono domandati: no, ma da dove arriva? Da dove arriva l'abbiamo capito, insomma, arriva dalla sofferenza, ma proprio etimologicamente, o comunque, che cosa significa blues? E poi volevo chiederti, Vincenzo, ma che cosa significa per te il blues oggi? Beh, il blues, una definizione esatta sinceramente del blues, per voler spiegare questa parola, diciamo in gergo, non esiste, perché il blues poi è la rappresentazione della tua tristezza. Io dico spesso, ognuno di noi ha un blues dentro la propria anima, e quando tu esprimi il blues attraverso la tua sofferenza, il tuo essere persona, come dire, anche sensibile a queste cose, che cosa esprimi? Quando tu esprimi la tua, il tuo modo di essere, esprimi chiaramente le cose che sono dentro, e quelle che hai dentro sono sempre cose che ti danno quel tormento straordinario. Il blues in fondo è nato nei campi di cotone, dove questi neri americani, diciamo liberi oramai dallo schiavismo, ma non sono stati mai liberi, tuttora non lo sono liberi, che cosa facevano? Cantavano questa loro tristezza di non appartenere alla propria persona, ma avere sempre un padrone. Allora loro, attraverso questo canto che poi hanno chiamato blues, perché era un canto di quasi di rivolta, però era una rivolta, come dire, anche controllata, una rivolta che guardava anche alle possibili, le possibili ritorsioni che potevano avere. In fondo il blues era per loro un'espressione di dire quello che non potevano dire a parole, lo dicevano col canto. Difatti, in una bellissima autobiografia di B.B. King c'è proprio una definizione particolare, dove dice: io non ho saputo mai parlare, non ho saputo mai esprimere il mio blues con le parole, lo faccio con la mia chitarra. E difatti la chitarra di B.B. King, se voi l'ascoltate attentamente, sembra piangere in ogni nota. E quello è il blues. Che cosa vuoi spiegare? Vogliamo spiegare che cosa vuol dire il blues? Il blues è questo qua, il blues è essere blues. Il blues è quella musica o quel sentimento che viene dall'anima e ti porta ad essere quello che sei, se veramente sei una persona. Se poi hai altri indirizzi, hai altre condizioni, hai altre situazioni, ma soprattutto hai altre visioni, sei altro. Ma per essere blues devi essere una persona vera, perché se no il blues non lo puoi, come dico tante volte io, non lo puoi andare a comprare in nessun negozio, perché nessuno vende blues. Ma in parte un po' hai già risposto a quello che volevo chiederti, quindi secondo te il musicista blues che cosa di più rispetto a, diciamo, a quello rock, ecco? Ma il musicista blues, io ho avuto tante esperienze, conosco moltissimi musicisti blues. Il musicista blues sente quello che fa, si esula. Il musicista blues non chiede mai un pubblico, il musicista blues non guarda mai oltre quello che è il suo strumento. Il musicista blues si mette seduto oppure in piedi se suona con una band, ma noi questa sera abbiamo parlato di musicisti che hanno tracciato la loro carriera, il loro cammino l'hanno tracciato da soli. Il musicista blues si siede a una sedia e canta la sua melanconia, canta la sua diciamo il suo stato, canta i suoi tormenti d'amore, canta tutto quello che lo pervade. Difatti diciamo che molti testi di blues non esistono sulla carta, perché sono dettati da momenti. Ecco perché il blues, diciamo quello veramente reale che si cantava nelle piantagioni durante il lavoro, non è stato mai scritto. Poi io spero di fare qualche altra trasmissione in futuro per parlare di grandi personaggi americani, etnomusicologi, che sono andati nelle piantagioni del Delta a registrare questi fenomeni. Ma qui già siamo oltre gli anni 40. Però ecco, come dicevamo prima, tu il musicista di blues lo riconosci dagli occhi, hanno sempre un po' degli occhi fangosi, come quelle persone che hanno dentro l'arte. Cioè tu non vedi mai un banchiere che ha gli occhi gli occhi tristi, lo vedi sempre con gli occhi spiritati, lo vedi sempre con gli occhi interessati. Invece chi respira arte, chi scrive poesie, chi scrive dei libri, chi fa musica, ha sempre quegli occhi velati di tristezza, di malinconia, di attese. Ecco, si attende sempre. E una cosa importante che mi piace raccontare sempre è che quando vedi il volto di questi uomini, di queste donne che cantano il blues, vedi sempre facce sofferenti, pieni di sudore. Loro lo vivono il blues. Il blues è un modo di vivere. Chi non è blues non lo può, non vive, cioè esuliamo da altre cose. Lo vedi in faccia. Io ho fatto un'analogia con il banchiere oppure con il ricco. Il ricco non pensa a blues, perché se pensasse blues probabilmente questo mondo andrebbe un po' meglio. Siamo arrivati in fondo a questo primo appuntamento. Certo che il primo appuntamento, e noi, Vincenzo, caro, noi ti strappiamo anche naturalmente la promessa, adesso ti ingaggiamo per farci trasportare in questo splendido fiume, perché bisogna dire fiume, sicuramente parlando di blues, del Mississippi. No, no, no, ma adesso passo la parola, ti passo la palla subito, però tu prima ci parlavi appunto di una sorpresa che potresti imbastire per la nostra radio, di un qualcosa live che potremmo fare, eh? Ci dici qualcosa? Bene, prima di dirvi la sorpresa che... Sì, questa sera devo dire solamente una cosa, che Carlo, nonostante il grande affare che ha avuto, ci ha condiviso un microfono che ci siamo passati come una palla a yo-yo. Ma a parte questo, volevo parlarvi un attimo dell'ultimo artista che ci ha presentato gli ultimi due brani, il grande Lad Belly, che ci ha cantato Good Morning Blues, il buongiorno in blues, e poi uno dei brani più, diciamo, più gettonati anche dei musicisti moderni, quel Midnight Special, un brano che è stato ed è tuttora una hit rubata un po' da tutti. C'è addirittura Bruce Springsteen che ci chiude tanti suoi concerti, ma John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, ma tanti altri musicisti. Anche io l'ho fatto qualche volta nelle mie performance. E niente, Carlo, dunque, dicevo, Lad Belly, un grande virtuoso della chitarra a 12 corde, un altro grosso esponente di quel blues a cavallo dai primi del Novecento fino alla, diciamo, alla fine degli anni 40, e lui difatti è morto nel 1949. Diciamo che questa sera abbiamo toccato un po' le corde di quel blues che viene dalle origini, le radici del blues, Roots. E a proposito di Roots, voglio dirvi che qualche anno fa abbiamo fatto anche una manifestazione ad Atri nell'ambito del Greenhill Blues, dove abbiamo invitato molti musicisti abruzzesi in occasione del terremoto dell'Aquila a partecipare a questa manifestazione. L'abbiamo chiamato Abruzz, che diciamo è un po' un modo di dire dell'Abruzzo, Abruzz, dalle radici, perché noi non dimentichiamo che l'Abruzzo è terra di blues. Allora Carlo mi diceva che cosa potrebbe essere questa sorpresa. Questa sorpresa è probabilmente, diciamo, armonizzando un po' i suoi impegni, potrebbe essere uno dei più grandi musicisti diciamo di blues del Delta, di blues quasi tradizionale, che in questo periodo è a Atri, è nostro ospite, e stranamente è venuto via dall'America e ha scelto Atri come sua residenza temporanea, ma pare che gli piace così tanto e vuole rimanerci. E forse riusciremo a organizzare qualcosa insieme a un altro chitarrista nostrano qui della zona, Alex Ricci, e magari di fare qualcosa in studio dal vivo, in modo di carpire l'essenza diciamo del blues dal vivo, e in più avere in questa radio Cerrano Web uno dei personaggi più straordinari del blues mondiale, perché lui è quasi, diciamo, sull'apice della piramide del blues. Lui è stato il protagonista del film Dal Mississippi al Mali. Io difatti ho scritto qualche giorno fa su Facebook: Dal Mississippi al Mali ad Atri. Praticamente lui è dal Mississippi andato al Mali per incontrare quell'altro grande musicista africano, Ali Farka Touré, e poi adesso sta ad Atri. Ad Atri, ed è una persona che si vede spesso in giro, è un signore di una rara serenità morale, umana, ma soprattutto un grande musicista che io mi onoro di avere amico e di farci qualche suonata anche con lui. E lui mi dice spesso: "You are best guitarist." Io non ci credo, perché forse lui lo dice per rispetto della mia età. Comunque, resta il fatto che se riusciamo ad organizzare questa cosa qui in radio, avremo la presenza di questo musicista e io chiedo anche ad Alex Ricci di magari di venire e di duettare con lui, come ha già fatto in qualche occasione. Le royalty le paghi tu, naturalmente. Tutto pagato, guarda, io... Chiaramente dobbiamo cercare a lui questa collaborazione, ma lui è una persona molto, come dire, molto, molto tranquilla, a modo. E poi, come dire, nel blues i soldi sono sempre l'ultima cosa. E io non ho mai guardato a quello che mi andavo a guadagnare, quel poco. Ho sempre pensato di soddisfare la mia anima. Altro è sempre conseguenziale nella vita. Quando tu fai un qualcosa che ti piace, non pensi mai a quello che è la finalità economica. Certamente servono per vivere, nel suo caso, siccome è un professionista, lui fa questo lavoro per vivere, ma uno strappo alla regola lo potrebbe anche fare per noi. Benissimo, benissimo. Vedete poi, ecco, come cose apparentemente lontane da centri come il nostro, insomma, poi ecco, piccoli sogni possono avverarsi. La presenza di un grosso musicista nella zona che si innamora magari della tranquillità, della bellezza, della storia di un luogo. Ecco, questo io credo che sono le cose che noi nell'area Cerrano possiamo ancora venderci a veramente a piene mani. E bisognerebbe che qualcuno comprendesse questo, bisognerebbe che anche noi come persone che abbiamo la fortuna di vivere in questa zona, prendessimo coscienza delle potenzialità, delle bellezze, e che tutto parta da noi. Io credo che tutto parta dalla gente comune, già credo sapere, essere coscienti di dove si è nati, di che cosa ci circonda. Io credo che sia un grosso passo avanti per poter poi imbastire intorno a questo il nostro futuro, il futuro dei nostri ragazzi. Bene, Mississippi Mood, prima puntata si chiude qui. Noi ringraziamo tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Io credo che sia stata comunque un'oretta, quasi due, di piacevole musica e chiacchiere. E allora l'appuntamento lo diamo al prossimo mercoledì, Vince? Che facciamo? Mercoledì, io non ci sto, t'ho detto. Facciamo allora, no, martedì, sì, possiamo fare così. Sì, martedì. Naturalmente vi dico che poi Schegge Impazzite tornerà giovedì, perché vi avevo promesso la seconda tranche di cantautori, perché c'è ancora da parlare su tutto il gruppo napoletano, quindi noi poi ci risentiremo con Schegge Impazzite giovedì. Però ormai questo bel impegno ce lo siamo presi con Vincenzo e continueremo a parlare di blues. Poi lui un po' seguirà l'evoluzione di questo genere musicale. E non ci rimane altro che darvi la buonanotte e ricordarvi che Radio Cerrano vi dà appuntamento anche sul podcast, o comunque sull'archivio archive.it, dove potete, da cui come? Org, sì, org, perché è l'estensione gratuita, è l'estensione. Sì, dicevo org perché .org, archive.org, da cui potete scaricare gratuitamente poi tutti i nostri programmi. E dicevo a Vincenzo che questa cosa è stata importante questa sera, anche per mettere un punto fermo su determinate cose, determinati avvenimenti, poi che nel giro di 10-15 anni, io spero per Vincenzo altri 40 anni, però possono andare perduti così, oppure rimanere nella memoria di pochi. Così noi cerchiamo di allargare questa memoria. Grazie a tutti, buonanotte da Radio A Cerrano Web. work for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come in my kitchen. It's hard to be ready, I do. Thank you.